Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Eccoci qua come ogni domenica, ben ritrovati da Federico Taddia e Matteo Bussola. I Padri Eterni, sì, ogni settimana parlare di padri, parlare di padri, parlare di tante storie che insomma ci permettono di così narrare un po', guardare anche quella che è l'attualità, la contemporaneità, appunto nella relazione tra noi padri e i nostri figli. Radio24.it, il nostro sito, da lì potrete poi scaricare il podcast Padri Eterni @radio24.it. Se invece volete scriverci, ma ci trovate anche nella nostra pagina ufficiale di Facebook, i Padri Eterni di Radio 24. Oggi belle storie, un ospite autorevole, Ilaria Capua, con la quale parleremo di mascherine e non solo, perché insomma le mascherine sono il tormento. Questa settimana ammetto, Matteo, di avere adesso litigato, è parola grossa, discusso insomma fortemente con il figlio adolescente, perché è tosto, no? Dire guarda, quando sei fuori da scuola, prima o dopo, se sei fuori dal locale, se sei fuori dalla palestra dopo l'allenamento, comunque quella mascherina va messa ed è un segno di rispetto nei confronti degli altri. Ma però sai cosa, Fede, che questa settimana, per esempio, no, credo io di condividere un'esperienza che ha riguardato molte padri e molte madri. Sono ricominciate, per esempio, alcune attività pomeridiane, sì, no? I corsi di hip hop, le ginnastiche artistiche, eccetera, eccetera. Ecco, devo dire che i bambini, soprattutto più piccoli, è un gusto vederli fare queste attività, perché sono spesso più bravi di molti adulti, obbediscono alle regole con grande precisione. Ecco, forse dovremmo guardare un pochino più a loro, no? Che si fanno meno domande e stanno semplicemente alle disposizioni corrette. Comunque ho scoperto per gli adolescenti qual è un problema della mascherina. Cioè? Fa venire i brufoli, me l'hanno detto. Sì. Beh, oppure li copre però. È vero, bravo, bravo, bravo, non ci avevo pensato. I Padri Eterni. Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shade. Matteo, la storia con la quale apriamo questa puntata è già un romanzo, quindi te la consiglio per il tuo prossimo libro. Stavo pensando di prendere spunto, in effetti. Sì. Una storia bellissima. Protagonista è una figlia che oggi ha 75 anni e finalmente ha scoperto chi era il suo vero padre grazie al web e grazie al test del DNA. Si trattava di un militare arrivato in Sicilia nel 43 e Rita finalmente ha dato appunto un nome, un'identità a quest'uomo. Le si chiama Rita Grassa ed è qua con noi. Ciao Rita, buona domenica. Buona domenica a tutti voi, grazie per l'invito. Allora, quanti anni hai speso in questo inseguimento? Ho speso 16 anni da quando ho saputo chi era mio padre, poiché mia madre mi ha sempre celato chi era mio padre, il mio vero padre. Me lo ha sempre nascosto, quindi prima di morire, 5 anni prima di morire, mi ha rivelato il suo nome e cognome. E lì cosa è successo? E da lì sono partite tutte le mie ricerche, quindi mi ha detto che era un militare che era sbarcato in Sicilia per lo sbarco degli alleati per cacciare via il nazismo, e quei tempi c'erano i tedeschi. E quindi mia madre ha incontrato questo bel militare e ha avuto dei rapporti con lui, è rimasta incinta e così mia madre mi ha concepito, ma senza mio padre. Però sì, io, per me questa figura di papà è stata sempre un ideale per me, cercare un papà, cercare di guardarlo negli occhi, di vedere la sua figura, di vedere com'era fatto, anche in fotografia mi sarebbe bastato. Però nel web non trovavo niente, e nei vari siti a pagamento anche per poter avere notizie, ma niente. L'unica cosa che è successo col mio DNA, io ho fatto un DNA in un database inglese, sì, poiché sapevo che lui era inglese, e così dal risultato c'era la comparazione di un pronipote di mio padre che usciva e c'erano 62 segmenti. Allora lì ho chiesto a questo ragazzo di 27 anni che si chiama Dylan e vive in Canada e aveva fatto lui il DNA, ho chiesto se aveva una Hobson nella sua famiglia e lui mi ha detto sì, mia nonna è una Hobson, la mamma di mia mamma, io vivo con lei. E così ho detto chiedi a tua nonna se vuole fare il DNA anche lei. Lei lo ha fatto dopo mesi e siamo risultati sorelle di un solo genitore. Ma infatti Rita, ma infatti oltre a scoprire l'identità dopo così tanto tempo, no, del tuo vero padre, del tuo padre biologico, hai scoperto anche di avere due fratelli. Che, sì, che emozione è stata quando vi siete incontrati? No, purtroppo no, a causa del Covid, perché l'ho scoperto l'anno scorso ad agosto e quindi ad aprile dovevo andare io in Inghilterra, ma voi sapete che è stato chiuso tutto, sì, con, certo, il Covid. E quindi non ci siamo potuti incontrare, ancora non li conosco. Ma Rita, sì, invece l'hai guardato negli occhi tuo padre, cioè hai avuto queste fotografie? Sì. Tramite mio fratello mi ha mandato una fotografia di mio padre proprio quando era militare e così l'ho potuto guardare negli occhi, almeno in fotografia. Cos'hai sentito? Cosa hai provato? Un'emozione tantissima, un'emozione bellissima, di appartenenza. Proprio ho sentito mio padre e poterlo chiamare papà anche solo per una volta, vedere com'era fatto. Io ho anche scritto un libro che si chiama Anche solo per una volta, dove descrivo tutte queste mie ricerche, tutte le mie emozioni che ho provato. È stato bellissimo. Purtroppo mio padre è morto e nel 2000 si trova in Canada e quindi io non posso andare, data anche la mia età non posso viaggiare, però sapere che in quella foto che rappresenta lui per me è stato importantissimo. Mi sento appagata, mi sento soddisfatta. Ecco, ma questo Rita, ma infatti è più come dire il rimpianto in un certo senso di non averlo mai potuto incontrare nemmeno una volta di persona, o più la gioia di averlo ritrovato? Sì, la gioia di averlo ritrovato dopo tanti sacrifici, ma è anche un po' di delusione perché non l'ho potuto abbracciare neanche una sola volta. E questo, diciamo, un po' mi rammarica, mi emoziona e mi rammarica, però avrei voluto certo abbracciarlo e guardarlo di persona certo, come era fatto, e che magari una volta sola dire papà. Ecco, certo, questo papà, ciao, ti voglio bene, come stai? Sì. Ecco, questo mi manca. Rita, grazie davvero per aver condiviso con noi la tua storia, e credo che da padri, no, sia bello sentire quanto è grande, quanto può essere grande l'amore di una figlia. Grazie, ciao e buona domenica. Grazie a voi, buona grazie, domenica Rita. A voi, ciao. Noi ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i padri eterni. Padri eterni. L'industria della musica è fallita, ma io un futuro per Carosso fare pizza e margherita. La libreria di Netflix l'ho finita, ora voglio fare binge watching alla vita. Gli influencer ma nessuno se li fila, fare le dirette mi stava antipatico da prima. Asintomatico alla sfiga, sono cresciuto come i peli sulle gambe alla tua tipa. Ma questo suono è funky, questo suono è tranky, perché ormai puoi darmi schiaffi solo con i guanti. Come la musica tra alti e bassi, attimi infiniti, la vita è fatta di istanti ma uniti. E se rispetto la distanza, che tanto tutto passa, allora dimmi perché ho una voglia assurda di stare dalla gente, urlare come in curva, cantare acqua azzurra, nudi in riva al mare, perdere un po' la testa. Matteo, abbiamo aperto questa puntata appunto dicendo quanto sia difficile, no, per noi genitori anche educare un po' con le parole, un po' con l'esempio, un po' con la testimonianza, all'uso della mascherina, al distanziamento, a quelle regole che poi sono facili regole, che sono il vero vaccino contro appunto il coronavirus. Adesso credo che insomma andremo alla scoperta di uno strumento che può essere davvero molto utile, soprattutto quando ci sono bambine e bambini piccoli, ed è il nuovo libro, si chiama Ti conosco mascherina. È un libro da leggere, ma è un libro anche da giocare, come sempre questa presa è un valore aggiunto, ed è scritto dalla nostra virologa di riferimento, Ilaria Capo, a cui diamo il benvenuto. Ciao Ilaria, buona domenica. Buongiorno, buongiorno, vi saluto dalla Florida all'alba, mi avete tirato giù dal letto, ma io sono qui per voi. Allora, benvenuta Ilaria. Allora, Ti conosco mascherina, che appunto è un gioco di parole, ma dice già tutto, no, di questo libro. La mascherina e la conoscenza, è l'unione di due cose che cerchi di far capire, cerchi di spiegare ai più piccoli. Sì, perché i piccoli secondo me sono forse fra le vittime che insomma più vulnerabili di questa pandemia, e noi magari noi adulti ci siamo occupati di altro, ci siamo occupati di dare la priorità ad altre emergenze in famiglia, i piccoli magari sono rimasti un po' indietro dal punto di vista della comprensione del fenomeno. E io con questo libro volevo far avvicinare i bambini a determinati concetti, come il concetto dell'invisibilità e come il concetto della convivenza con un mostriciattolo invisibile che però c'è, e quindi vuole dare tutta una serie di indicazioni e spiegare le motivazioni per cui bisogna lavarsi le mani, per cui bisogna mettersi la mascherina, anche ai più piccoli, perché la sanità pubblica parte dalla famiglia, deve partire dalla famiglia, e deve partire da una famiglia che è allineata su determinate modalità di comportamento. Certo. E allora, siccome i genitori saranno anche stanchi di sentirsi dire metti, togli, adesso vediamo se parlando ai bambini riusciamo a dare questo, diciamo, scatto che ci porterà verso la fine di questo inverno difficile, perché sarà un inverno difficile. Ma infatti, Ilaria, veramente il punto di vista apprezzabile del libro, no, è proprio quando che viene detto, no, subito all'inizio, cioè che i virus esistono da sempre, e viene porto, no, proprio in maniera, cioè forse più che pensare di sconfiggere questi virus, dobbiamo imparare a conviverci, no, in maniera sana, in maniera virtuosa, con tutti quegli accorgimenti che sono necessari. Forse, come diceva Federico in apertura, il vero vaccino è proprio adottare i comportamenti corretti. Assolutamente sì, anche perché dunque il virus c'è, sì. Il virus non andrà via, e sappiamo come tenerlo sotto controllo, cosa che a gennaio o febbraio non sapevamo. Adesso abbiamo un anno di esperienza. Adesso sappiamo quali sono i comportamenti virtuosi, e sappiamo anche, purtroppo, attraverso l'esperienza di alcune persone che l'hanno presa un po' alla leggera e che poi si sono ammalati, che diciamo alcuni comportamenti sono da evitare. Con queste ricette noi il virus riusciamo a tenerlo sotto controllo. I virus ci sono sempre stati, faccio riferimento al virus dell'asiatica, che è un virus che i nonni di oggi si ricordano, ma anche soltanto la nostra capacità di curare i pazienti oggi è di gran lunga superiore a quella che avevamo anche solo 20, 30, 40, 50 anni fa, senza arrivare alla spagnola. Certo, Ilaria. Quindi, tra l'altro hai fatto proprio riferimento all'asiatica, no? Ed è la prima cosa che c'è quando apri una finestrella nella prima, sì, pagina, che ai bambini si dice: guarda, questo è tuo nonno che oggi sta bene e ha avuto comunque una malattia tanti anni fa, no? Anche rassicurarli che appunto con le giuste cure e soprattutto con le giuste precauzioni, con i giusti comportamenti, anche i nonni possono salvarsi, no? Che sembra invece che sia una notizia incredibile per bambine e bambini che, appunto, vedendo le notizie dai telegiornali, hanno avuto mesi di terrore nei confronti per i loro nonni. Ecco, e anche questo secondo me è qualcosa che va gestito e va ammorbidito, perché non va neanche bene che i bambini poi si ricordino di o che sviluppino anche dei sensi di colpa, non va bene. Allora, con questo libro io vorrei spiegare perché bisogna usare determinati comportamenti virtuosi, e vorrei entrare anche a far vedere il vero protagonista di questo virus, che non è di questo libro, che non è il virus, ma è la gocciolina, perché il virus viaggia sulla gocciolina. Certo. Allora, una volta che abbiamo capito determinate cose, possiamo veramente guardare in faccia questo mostro, che non è più un mostro, ma è uno dei tanti virus con i quali abbiamo a che fare e avremo a che fare, perché siamo organismi viventi e pertanto siamo soggetti alle infezioni virali, come tanti altri animali, tante altre piante e tanti altri organismi, tra cui alghe e via dicendo. Certo, ma infatti, guarda Ilaria, il paradosso è che leggendo questo libro ho pensato che forse è un libro che servirebbe a molti adulti, no? Nel senso che i bambini spesso sono molto più bravi di noi, cioè apprendono la regola e la applicano senza farsi tante domande inutili, mentre invece sull'uso delle mascherine da parte di noi padri, di noi madri, di noi adulti, spesso sentiamo ancora delle cose incredibili. Insomma, come tu ben dicevi, no, a proposito delle goccioline, a me pare un'evidenza, pur non essendo uno scienziato, che mettere una barriera fisica che impedisca i droplet, le goccioline, che sono il veicolo attraverso il quale il virus si trasmette, insomma, ecco, sia meglio metterla che non metterla, mettiamola così. Ma allora ti chiedo, come fare, come riuscire secondo te a far accogliere questo strumento di profilassi con la stessa naturalezza con cui l'hanno accolto i bambini, come riuscirci anche con noi adulti? È una sfida più difficile. Allora, è una sfida più difficile, però io credo anche che adesso, dopo tanti mesi di mascherina, ognuno ha trovato la mascherina che si merita, diciamo, no. Si confà. No, allora, anche perché, ma voglio dire, ci sono pelli più grasse, pelli più secche, ci sono labbra più grandi, più piccole, forme del viso. Allora, io ho trovato una mascherina che è di un certo taglio, che praticamente dopo 3 minuti non la sento più. Okay. Quindi bisogna mettersi, e voglio dire, se ci fosse stata una fuga di un gas tossico e fossero distribuite le maschere antigas, non ce le metteremmo, ce le metteremmo. Quindi bisogna mettersi la mascherina e comprendere che, oppure viene una botta di freddo terribile, e che facciamo? Non ci copriamo? Ma certo che ci copriamo, no? Quindi allora in questo momento c'è bisogno della mascherina. Vi prometto che fra qualche anno diremo: oh, ma ti ricordi? Guarda le foto di quando bisognava mettersi la mascherina, perché questa è la storia delle infezioni virali. Vorrei però che con questo libro, fra 2 anni, quando ci sediamo a tavola, il discorso l'incipit del pranzo sarà: ma vi ricordate di quando non infilavamo le mani prima di sederci a tavola? Certo, bravo. Ilar, un'ultimissima domanda. Grande protagonista del libro è anche il papà, perché fa un sacco di cose insieme alla sua figlia. Che ruolo dobbiamo avere noi padri in questa avventura? Ecco, io parlo molto ai padri in questo libro, perché i padri hanno un ruolo secondo me importantissimo, specialmente quando si tratta di bambini in età prescolare, e quindi il mio, diciamo, padre di questo piccolo racconto è un padre che contribuisce a risolvere una situazione un po' di impasse, e attraverso, diciamo, una avventura con un po' di complicità con la nostra protagonista, risolve un problema della famiglia. Quindi io vorrei proprio che questo libro fosse un libro per i padri, per le famiglie, e anche per una, diciamo, conversazione intergenerazionale, perché i nonni si ricorderanno dell'asiatica, e per essere, insomma, più pronti, più forti e tutti quanti più sul pezzo, perché in realtà bisogna soltanto essere sul pezzo e mettere in atto quelle 3 cose che sappiamo, che sono igiene, distanza e mascherina. Ti conosco Mascherina, la Coccinella editore, le illustrazioni molto belle sono di Ilaria Faccioli. Ringraziamo Ilaria Capua per essere stata con noi. Ciao Ilaria, buon lavoro. Due Ilarie is meglio che one. Buon lavoro a voi. Allora grazie Ilarie. Grazie. Ci fermiamo nel momento della pubblicità, il meteo, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Ancora buona domenica da Federico Taddi e Matteo Bussola, i Padri Eterni, storie per parlare di padri, storie anche per dare strumenti ai padri e ai genitori per aiutare la relazione, la conoscenza, no, dei nostri cuccioli piccoli e grandi. Il tema che andiamo a toccare adesso è un tema delicato, un tema particolare, un tema che è uno dei... È un tema che non vorremmo, di cui non vorremmo mai parlare in realtà, ma affrontarlo è necessario, mai come oggi. Anche se spesso appunto non parlarne anche con i nostri figli si pensa che sia la soluzione, anche perché non si sa quali parole usare, no? E quindi siamo ben felici di farlo. Il tema è quello delle droghe, degli stupefacenti, dei segnali, e se ha senso cercare questi segnali e quali sono appunto nei nostri figli per capire cosa sta succedendo, per capire se ne fanno uso, per capire se ne sono attratti. E c'è con noi Nicola Neri, che è psicologo dell'associazione Policino e Centro Crisi Genitori Onlus, autore di un articolo molto bello che abbiamo trovato sul sito aleteia.org, che ringraziamo per essere qua con noi. Ciao Nicola. Buongiorno, buona domenica, grazie dell'invito. Il titolo dell'articolo dice già tutto: ho paura che mio figlio faccia uso di stupefacenti, cosa posso fare? Anche se questa ho paura è una paura che c'è sempre, no? Cosa vuol dire affrontare con i figli questo argomento? Quali sono le antenne che bisogna tenere attive? Sicuramente un tema molto, molto complicato, molto complesso, anche perché è in evoluzione, sia per quanto riguarda l'utilizzo di sostanze, sia per quanto riguarda anche l'adolescenza che cambia. Quindi in primo luogo potrei dire che un punto importante è evitare sicuramente per principio un atteggiamento giudicante o accusatorio. Questo perché contribuisce a creare delle barriere e a mantenere appunto questo argomento in una zona d'ombra, trasformando in un tabù, se così posso dire. E poi anche appunto sicuramente riconoscere di non saperne abbastanza, anche se, come dire, si può avere una conoscenza derivante dalla propria adolescenza, ma rendersi conto appunto che questa non è più attuale, non è più, è differente, quindi informarsi, quindi accettare di non sapere, ecco, e disporsi sicuramente all'ascolto. Questi sono sicuramente delle tre punti, ecco. Certo, ma Nicola, senti, scendendo più sul pratico, proprio anche nella speranza di spendere qualche consiglio utile per gli ascoltatori, cioè quali sono i primi segnali che come padri o come genitori, i primi segnali di allarme che devono farci preoccupare? Allora, ci sono segnali di vari ordini. Potrei sicuramente parlare di una diciamo, generale diminuzione del rendimento scolastico o diciamo una diminuzione dell'interesse, un venir meno, quindi rispetto a magari a degli sport, degli hobby, delle attività prima amate o diciamo praticate con piacere, poi non dico abbandonate, ma appunto questo interesse che viene meno. Poi vi sono anche altri segnali, come dire, più magari più difficili anche da gestire, come possono essere i comportamenti aggressivi a scuola o anche in altri contesti, ad esempio anche a casa, per arrivare anche poi all'isolamento, a cambiamenti dell'umore, oppure anche rispetto alle abitudini, cioè per quanto riguarda ad esempio anche le abitudini alimentari o i rapporti sociali, quindi diciamo tutte, diciamo, un cambiamento rispetto a quello che a quello che prima era il figlio, ecco, possiamo dire così. Certo. E poi c'è, no, un'altra conseguenza, no, di questa cosa, che si diventa dei detective e si va, si cerca di leggere nel cellulare, si va a vedere nelle tasche, ecco. E si segue il figlio, tutto ciò ha senso? Ecco, questo è sicuramente un tema spinoso, perché cioè, possiamo dire che non si cresce senza una zona d'ombra, cioè l'adolescente entra, diciamo, nell'adolescenza possiamo vedere come un pianeta, il pianeta adolescenza, di cui una faccia rimane e deve rimanere in parte, come possiamo dire, oscura o comunque nascosta. Quindi questa parola detective forse è un po' forte, ecco. Diciamo che diciamo, bisogna riconoscerla questa zona d'ombra, che può riguardare dal cellulare a dove cosa fa il figlio fondamentalmente, che incontra questo mondo. Questo mondo, appunto, diciamo, il figlio non è più un bambino e il mondo può sembrare cattivo. E quindi c'è questa zona però che manca, che viene meno. Quindi sicuramente riconoscerla. Quindi per essere disposto a dialogarci, potrei dire. In questa zona. Nicola, mi avventuro su un terreno scivoloso. Ci sono sostanze che ci devono, come genitori, come padri, preoccupare forse più di altre, oppure in generale qualunque tipo di sostanza psicotropa va trattato con la stessa gravità? Allora, questa diciamo, non c'è una risposta univoca per tutti, perché ogni soggetto incontra e anche, diciamo, reagisce, se possiamo così dire, alle differenti sostanze in modo differente rispetto a qual è la sua storia e la sua vita. Cioè, quindi non sentirei di fare una scala delle sostanze. Chiaramente ci sono sostanze più dannose, più come dire, che inducono una maggiore dipendenza, quelle che possono essere definite appunto sostanze, diciamo, più pesanti, droghe pesanti. Tuttavia, quello che mi sento di dire è il fatto che è importante oggi pensare che c'è un'evoluzione anche nelle sostanze. Questo anche, certo, come riportato da diverse ricerche, quindi più anche in questo senso quello che dicevo prima su un riconoscere di non saperne, anche di non sapere quali sostanze. Ad esempio, oggi vediamo un aumento, diciamo un crescente aumento nell'utilizzo di oppiacei e anche soprattutto di medicinali, quelle possono essere ad esempio le benzodiazepine, utilizzate a scopo, possiamo dire così, ludico o ricreativo, ecco. Quindi pasticche, per dirla in maniera molto elementare, insomma. Sì, diciamo, vengono utilizzate anche differenti droghe, che anche più sconosciute in generale, quindi certo. Anche lì, per quello, il punto è andare a vedere il proprio figlio che, come dire, come vive questa adolescenza, perché comunque stiamo parlando di adolescenza, che è il momento in cui diciamo è la fase della vita in cui tendenzialmente si incontrano le sostanze, non per forza si utilizzano, ma si incontrano. Quindi che cosa ricerca, possiamo dire così, all'interno di questo mondo, che a noi genitori può preoccuparci, perché sembra che questo ragazzo possa essere attratto da questo mondo, ecco, possiamo dire così. Nicola, ma la domanda diretta, guardandolo negli occhi al figlio adolescente, ti sei fatto una canna, usi sostanze, hai provato qualcosa, è una domanda che va fatta? Una domanda che va fatta a seconda del rapporto che c'è tra il genitore e il figlio. Io penso che se c'è un dialogo, all'interno di un dialogo si conoscano le regole, come dire, le regole su di cosa si può dire, che livello di confidenza c'è, perché visto chiaramente è una chiusura dall'altra parte, se è un detective che dall'esterno, che è quasi come un estraneo rispetto a questa tematica, è paradossale, un genitore estraneo, però rispetto a questa tematica si pone appunto come esterno. Quindi dipende dalla relazione che c'è fra il ragazzo e la madre o il padre. Quindi si può, come non si può, dipende dalla relazione, ecco. Ma Nicola, adesso al di là, no, di questo aspetto che tu già prima evidenziavi, no? Cioè il fatto che le tipologie di sostanze cambiano a una velocità impossibile da seguire, no? Per chi non ne sia direttamente coinvolto, ma quali sono le difficoltà che un genitore, un padre può trovare nell'affrontare questi argomenti col proprio figlio? Sicuramente le difficoltà rimandano innanzitutto al tipo di rapporto che questo adolescente ha con la sostanza. Chiaramente la difficoltà di parlarne è che è un argomento tabù, è un argomento di cui anche l'adolescente può avere un vissuto anche conflittuale, può esserne attratto ma al contempo anche spaventato, può vedere degli amici che lo utilizzano, quindi anche la difficoltà di chiarirsi la posizione a se stesso del ragazzo e quindi poi di poterne parlare, perché non dico che sia insicuro ma anche incerto, e poi sicuramente magari anche può esserci una preoccupazione del ragazzo nei confronti del genitore rispetto al fatto che cioè è difficile parlare con qualcuno che è preoccupato di quello che dice, e quindi il rischio è fondamentalmente una chiusura, è un nascondersi totalmente in quella zona in ombra. Ecco, quella zona in ombra diventi un pianeta in ombra, quindi che diventi un qualcosa da nascondere. Questa è sicuramente una grande difficoltà. E Nicola, un'ultima domanda: il centro dove sei psicologo, appunto, l'associazione Policino e Centro Crisi Genitori, di cosa si tratta? Allora, l'associazione, appunto, è un centro milanese che si occupa, diciamo, della prevenzione della clinica di disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva, delle nuove dipendenze, anche ad esempio quelle degli oggetti tecnologici, ma anche di, appunto, come dice il nome, ma anche di accogliere la preoccupazione genitoriale. Questo si dà un valore proprio perché è, come dire, è anche un punto di inizio, un punto di apertura, non è soltanto la preoccupazione del è un vissuto importante che va accolto, e può essere anche quello l'inizio di un dialogo anche col figlio. PolicinoOnlus.it per tutte le informazioni. Ringraziamo Nicola Neri per essere stato con noi, ma ci ritroveremo sicuramente qui ai Padri Eterni. Ciao Nicola, buona domenica. Vi ringrazio, ciao. Grazie Nicola. Ci fermiamo, il traffico, poi subito dopo ancora qua. Sei a casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no. Sei disperato? No, non sono disperato. Sei solo? Non sono solo, c'è mia compagna. È evidente, sei proprio solo. Ma ci pensiamo noi. Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic. Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti. Cioè, come faccio? Vieni su Telegram, sì? E cerca Off Topic _24. E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito? Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24. Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina. E faccia un sorriso! Si diverta! Ma no, ma neanche... Che la vita già dura poco! Ma no, ma come? Padri Eterni. Favole è un gioco che si fa con il tempo ed è vero soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento, è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti tutti lì felici e contenti. Forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vera soltanto a metà. Allora Matteo, per presentarti il prossimo ospite, rubo una battuta dell'ospite stesso. che lui dice è: con la nostra famiglia, per arrivare a fine mese, facciamo i salti mortali. Come spesso noi lo diciamo di tante altre famiglie, di tanti altri padri, ma loro i salti mortali li fanno per davvero, perché sono una famiglia giramondo, è una famiglia di saltimbanchi. Ma quando dico famiglia, sono la papà, la mamma e i tre figli, cioè proprio una squadra completa, e addirittura il cane, che appunto non dobbiamo dimenticare. Diamo il benvenuto al capo famiglia, quindi il capo saltimbanca, colui che è, non so, cioè essere capo buffone, capo clown. Edoardo, come possiamo definirti? Diciamo capo buffone mi piace molto. Edoardo Mirabella, appunto. Ciao Edoardo, ciao. Federico, ciao Matteo e via. Sì, questa battuta nasce dalla verità, perché poi sai che le battute fanno ridere quando sono vere. Sì. Quindi diciamo, fare i salti mortali per arrivare a fine mese sembra quasi una cosa impossibile, però giocando e prendere la vita con un certo spirito, ho comprato una casa, ecco, quindi a furia di saltare sono riuscito pure a comprare una casetta, ecco. Certo. Comunque, insomma, nelle arti, nelle tue arti in particolare, no? Anche nelle arti circense, da tradizione, no? Che tutta la famiglia viene coinvolta, anche se adesso è sempre più difficile, no? Vedere intere famiglie che fanno lo stesso lavoro. Ma la prima domanda, Edoardo, vado proprio alla fine di questa storia: ma ogni tanto non ti senti in colpa nell'aver coinvolto i tuoi figli nel tuo lavoro? Sì, infatti anche qui c'è un'altra battuta, io dico: i miei figli non sono obbligati a stare qui, loro sono qui solo perché hanno fame, che sembra una battuta, ma no, scherzo, ma no, in colpa no, perché non ho mai obbligato nessuna tecnica di giocoleria. Noi non siamo una famiglia circense, perché noi siamo veramente dei saltimbanchi. Io sono proprio un saltimbanco di natura, perché nasco dalla strada, non avendo avuto una famiglia normale, nel senso che mia madre era è rimasta incinta, quindi una ragazza madre, e quindi sono cresciuto con il nonno e la nonna, con mia madre che andava a lavorare, e quindi anche lì una famiglia super numerosa, era molto facile essere quasi trasparente. Poi dopo sai, il lavoro è arrivato così per gioco, perché ero un ballerino di break dance, mi piaceva molto il mimo, la giocoleria, queste cose qui. Infatti io ho raccontato così prima, quando ci eravamo sentiti prima di essere intervistato, che ho visto a 5-6 anni un giocoliere in una piazzetta lanciare i palloni. Mm-hmm. E da quella volta lì mi sono innamorato, e allora i miei figli li ho soltanto portati dietro, come un figlio di un barista sta dietro al banco di un bar, semplicemente, no? E il fatto di portarli in scena è stato proprio per poter continuare a lavorare. Quindi i nostri figli erano dentro a una cargo bite, un cassone, queste biciclette olandesi dove si, certo, portano dentro i bambini. Sì. Loro tre erano seduti con il cane, chiaramente, dentro questa cargo bite, che era la loro cameretta viaggiante, con i giocattoli, il Lego, i topolini, queste cose qua, e davanti a questa bicicletta noi eravamo a fare i nostri numeri così, di giocoleria, saltimbanchi, ed è successo di tutto in questo periodo, perché quando erano piccolini, sai, il più grande aveva 7-8 anni, il più piccolo ne aveva 3 più o meno, e quindi si guardavano fra di loro, no? Noi avevamo messo giusto un costume per riconoscerli, per in caso si allontanassero dal cerchio delle persone. E poi niente, ci sono un sacco di episodi divertenti. Per dirti, più piccolo, durante le acrobazie, che mi dice: papà devo fare pipì, papà devo fare pipì, un attimo papà, un attimo solo, a un certo punto poverino non ce la faceva più e ha fatto pipì nel cerchio, mentre noi eravamo in figure acrobatiche. Il famoso numero della pipì nel cerchio, chi non lo conosce? È l'unico artista che è riuscito a poter fare una pipì durante, certo, uno spettacolo davanti a tutti. Edoardo, senti, mi verrebbe da chiederti, no, in un mondo sempre più virtuale, come dire, no, come sia fare un lavoro come il vostro, che invece ha a che fare con la concretezza, con le acrobazie, con l'essere in un determinato posto, ma soprattutto ti chiedo, in questo momento specifico, no, il momento in cui stiamo attraversando questa fase difficile a causa del Covid, un lavoro come il vostro che si confronta con il calore del pubblico, con l'essere presenti in un luogo, riuscite un pochino a portarlo avanti? Come funziona? Beh, il distanziamento reale non è tanto, perché nel senso, noi siamo abituati a lavorare con il contatto, no? Perché poi la tecnica della strada è proprio il coinvolgimento. Il distanziamento sociale ha dato a noi la possibilità di creare numeri più visivi, meno di coinvolgimento, quindi meno animazione, quindi abbiamo affinato molto più, non più l'improvvisazione, perché poi il teatro di strada è un continuo improvvisare, quindi non c'è più il coinvolgimento totale, dove vai a abbracciare la vecchietta, dove stringi la mano al signore, dove passa la signora con la spesa, no? Si è tolto completamente il lato, diciamo così, umano, quello proprio, però verbalmente, capito, abbiamo iniziato a dire, prima del Covid facevamo questo, adesso non possiamo fare più, quindi ci siamo un po' adattati. Il pubblico è diverso, è cambiato, quello lo devo dire. Quest'estate abbiamo lavorato solo nei festival con delle transenne nel luogo dello spettacolo, e dentro queste transenne entravano 20, 30, 40 persone sedute, dando nome, cognome, misurazione della febbre, tutto quello che è la prassi del decreto, certo. Però siamo riusciti comunque a lavorare e a poter regalare dei sorrisi, che questo, con queste normative qualcosina siamo riusciti a fare, ecco. Grazie Edoardo. Ciao, Mirabella. Ciao, gentilissimi. Ciao. Teatroviaggiante.it per chi volesse conoscere meglio questa famiglia. Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a Danilo Di Trani in redazione, in assistenza oggi Jacopo De Franchi, alla parte tecnica Paolino Corleoni. Radio24.it, il nostro sito, fatevi vivi, scriveteci idee, storie, commenti, suggerimenti, anche critiche. padreterni@radio24.it è la nostra mail. Ciao Matteo, buona settimana. Ciao Fede, buona settimana a te. L'appuntamento come sempre a domenica prossima alle 11. Ciao. Ciao. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.